9 in punto, la versione di Oscar. Che ci sia una categoria di persone pagata con i soldi dei contribuenti che si esercita nel perseguitare, che so, il primo contribuente italiano e l'operatore principe della nostra protezione civile, con dei processi che alla fine risultano sempre tutti comunque infondati, e questo è un male italiano che io mi sento di denunciare. Ecco, lo avete sentito, queste le parole con le quali ieri il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha dato il suo primo commento ai provvedimenti che sono stati emessi dalla magistratura di Firenze nei confronti dei vertici della protezione civile del nostro paese. C'è un avviso di garanzia, tra l'altro, per corruzione nei confronti di Guido Bertolaso, l'uomo del fare per antonomasia nel nostro paese. Vi sono 4 provvedimenti restrittivi della libertà personale per alti vertici della protezione civile, tra cui Angelo Balducci, al vertice anche della struttura tecnica dei lavori pubblici italiani, e di fatto uno degli di coloro ai quali negli anni le ordinanze della protezione civile avevano delegato l'esercizio dei poteri straordinari consentiti nell'emergenza. È una vicenda che lascia perplessi, è una vicenda che viene trattata, faccio un rapido giro di opinioni, dalla stampa quotidiana di oggi con toni molto diversi, per così dire, negli editoriali. La Stampa e il Corriere della Sera hanno, a mio personalissimo giudizio, gli editoriali più equilibrati. Da una parte Sergio Romano sul Corriere, con titolo "Emergenza e regola", sottolinea che corriamo un po' il rischio, questa è la sua frase finale, corriamo il rischio di passare da una situazione in cui non si fa niente con le leggi ordinarie nel nostro paese a una situazione in cui tutto può essere materia di sospetti e indagini con le leggi appunto straordinarie, che come vedremo consentono, questa è l'accusa, alla protezione civile di fare altro dalla protezione civile, di fare ciò che con la protezione civile, cioè con le emergenze sismiche di ordine pubblico, di ordine internazionale, poco, anzi nulla a che vedere. E quindi, dice Sergio Romano, attenti, perché se con l'ordinario non si fa nulla, con lo straordinario c'è molto il sospetto, su cui a quel punto si infila la magistratura. Mentre sulla Stampa c'è un editoriale più accorato firmato Michele Brambilla, che dice, titolo, "Diteci che non è vero", cioè se ci levate anche la credibilità in una persona come Bertolaso, che siamo abituati a vedere come il risolvi tutto al di là della contrapposizione tribale violentissima della politica italiana, beh, ci levate qualche cosa che ancora ci induceva a credere nelle istituzioni. E come al di là di questi due commenti, poi le opinioni si dividono molto. C'è chi il Fatto Quotidiano, in un fondo di Peter Gomez, il Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da Andrea Fadellaro, titola in prima "Protezione e corruzione", e dice "Esplode il sistema per il potere Bertolaso, fatti gravissimi". E nel suo editoriale Peter Gomez afferma "Al di là di quelli che saranno gli esiti dell'indagine, già ora si sa", quindi Peter Gomez parla all'indicativo, "già ora si sa che intorno a Guido Bertolaso negli anni è nato ed è stato foraggiato un sistema di scambi, di favori, di assegnazioni, di appalti perfettamente bipartisan". E qui è il seguito, ma il giudizio è netto nei colleghi del Fatto. Qui siamo in un sistema in cui c'è l'immunità totale e c'è un interesse improprio di corruzione bipartisan, perché come vedremo poi in realtà ai benefici della protezione civile, Rutelli, Veltroni, si indaga sui fatti di Roma, il mondiale di nuoti, quelli che vinse Veltroni annunciando che era Calatrava ad occuparsene, e vedremo che però questo è un giudizio, per così dire, che esprime cosa? La posizione del PD? No, il PD, a dire la verità, è stato molto più moderato ieri nelle sue espressioni politiche, ha parlato soprattutto nei talk show seguitesi nell'arco della giornata, radiofonici e televisivi, anche ieri a Porta a Porta, per esempio il senatore Luigi Zanda, che era tra i parlamentari del PD ed è colui il quale stava portando avanti in Senato la battaglia contro la trasformazione della protezione civile SPA in una agenzia esterna al perimetro dell'organizzazione dello Stato. Era uno dei provvedimenti all'esame del Parlamento e Luigi Zanda lo ha fatto in punta di diritto, per così dire, esattamente contestando che il più delle ordinanze straordinarie di questo, che attualmente è un dipartimento della Presidenza del Consiglio e che che non era nato così nel 92 e nella riforma Barberi, e lo è diventato nel 2001, contestando in punta di diritto che il più delle ordinanze, centinaia di ordinanze che attribuiscono i poteri straordinari di emergenza ai capi della Protezione Civile, non ricadano appunto nel fronte dell'emergenza, ma senza estendersi a un giudizio così netto come questo di Peter Gomez. Certo, facendo capire che spesso però in quelle circostanze, quando si tratta di eventi che hanno a che vedere con i viaggi del Papa, con i pellegrinaggi, molto citati ieri come esempi di competenze a sproposito della Protezione Civile, come a dire quindi che vengono utilizzati per ricaduta politica dalla Presidenza del Consiglio, perché si dice che c'entra il Papa col sisma e si stringe un po' l'occhiolino, ma in quel caso, poiché naturalmente i lavori vengono affidati in regime di sospensiva delle 130 articoli del codice degli appalti e senza bandi di gara, si dice: ma perché, cosa c'entra questo con il terremoto? Quindi il PD questo. E in effetti anche il titolo di Repubblica di oggi, corruzione indagato Bertolaso, è un titolo diciamo meno duro rispetto a quelli del Fatto, anche se poi l'articolo di Alberto Statera, che inizia in prima pagina dal titolo Il grande regno dell'emergenza, insomma picchia duro. Anche se, a dire la verità, sceglie di picchiare duro molto più che su Bertolaso, su Balducci, cioè questo personaggio intorno al quale gli inquirenti di Firenze, che stavano poi intercettando telefonate per via dei famosi, vi ricordate, scandalo sulle aree che portò l'ex sindaco De Domenici a incatenarsi a Roma per protesta. Ecco, ascoltando queste cose, di cosa in cosa hanno allargato le proprie intercettazioni fino a occuparsi poi di imprenditore edile in imprenditore edile, in quelli che lavoravano per i mondiali di nuoto 2009 vinti da Veltroni, e quindi questo imprenditore anemone e i suoi legami appunto con Balducci, che viene arrestato ieri, e via via arrivando fino ai lavori per circa 300 milioni per il G8 che doveva tenersi alla Maddalena e fu poi spostato, vi ricordate, all'Aquila dopo il sisma. E dicevo, in questo articolo di Repubblica Alberto Statera si picchia soprattutto contro Balducci e i suoi amici, una corruzione gelatinosa. Questa è una citazione dall'ordinanza del GIP di Firenze. Faccio notare tra l'altro che tra gli indagati esiste anche il procuratore capo di Roma, dottor Achille Toro, coinvolto intorno a queste vicende dei rapporti impropri, secondo gli inquirenti di Firenze, tra gli imprenditori Anemone, Balducci e vari cicli di lavori di costruzione, dai mondiali e dalle piscine sotto indagine per il mondiale di nuoto a Roma fino all'Aquila e così via. Ecco, diciamo che quindi il ventaglio è molto ampio. Esiste un problema di fondo. Il problema di fondo, al di là del giudizio su Bertolaso e sui suoi e su quanto di ottimo abbiano fatto, perché su questo tutti concordano, che abbia fatto cose ottime, dai rifiuti a Napoli, dall'emergenza del terremoto, esiste un problema di fondo. Per questo problema di fondo si riduce in definitiva, per me, ed è su questo che chiederei ai nostri ospiti che vi passo a presentare di intervenire, su questa distinzione tra il regime ordinario del codice degli appalti, delle norme europee quanto ad ammontare delle risorse oltre le quali bisogna procedere a bandi di gara italiani o internazionali, quanto con questo non si riesca a fare nulla, come dice Sergio Romano, e quanto poi quindi per fare in tempi rapidi ciò che serve non solo ai sismi, non solo per controbattere a emergenze naturali, ma anche per affrontare la ordinaria straordinarietà della politica e dei suoi eventi nazionali e internazionali, si sia costretti a fare con una struttura che nel 2001, dal 2001 in avanti, da quando diventa Dipartimento della Presidenza del Consiglio, si vede attribuire poteri in deroga sempre più ampi e netti rispetto all'ordinarietà di un ordinamento grazie al quale però non si fa nulla. Questo è secondo me il punto preciso, poiché noi non abbiamo le carte per poter giudicare le ipotesi di reato su cui si muovono i magistrati di Firenze. Devo dire che quando leggo un titolo come quello di Libero di oggi, La Protezione Civile va a mignotte, francamente mi viene un po' da sorridere. Ecco, io preferirei non parlare di questo. Non mi interessa se nelle intercettazioni quando Bertolaso torna dagli Stati Uniti e chiede a un centro benessere, secondo me può chiedere benissimo un massaggio. Non credo che il punto sia quello di attirare l'attenzione se stesse chiedendo un massaggio o qualcos'altro. Il punto è se nella Repubblica Italiana, con l'ordinarietà delle norme sui controlli preventivi e di rispetto del mercato, non si fa un piffero di niente. Ecco perché allora a quel punto appunto con la straordinarietà si risolve. Se è sbagliato questo, è qui che bisogna intervenire, lasciando poi i magistrati fare quello che devono. Gli ospiti ai quali consegno questo interrogativo, ma un giudizio complessivo su tutto, anche sulle parole di Berlusconi, se le condividano o meno, sul fatto che i magistrati probabilmente, sentendosi aggirati nei controlli, a quel punto si mettono ad ascoltare fino a che qualcosa beccano, in un regime ovviamente in cui nei lavori straordinari non si va tanto per il sottile, perché conta il tempo e conta farle le opere. Gli ospiti sono questi. Innanzitutto abbiamo con noi Iole Santelli, che è deputato al PDL, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo Luigi De Magistris, che è parlamentare europeo dell'Italia dei Valori. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, io inizierei con voi due, inizierei con De Magistris. De Magistris, io citavo i giudizi dati dal Fatto. Nella sua opinione, come politico, non sto parlando adesso del suo passato di magistrato, questo problema dell'ordinarietà e straordinarietà è un problema dovuto al fatto che con l'ordinarietà non si fa niente, o comunque è un cono d'ombra nel quale è meglio ascoltare, intercettare e sentire? Ma il mio giudizio è da politico, ovviamente vi soccorre anche la mia esperienza pregressa, e lei ha colto proprio il cuore del problema, che poi attiene anche al malfunzionamento della politica e un po' degli apparati dirigenti. Siccome non funziona l'ordinarietà, siccome le procedure di appalto sono lente, magari sono farraginose, sono troppo garantiste, c'è un eccesso di burocratizzazione, che cosa è accaduto? Che siccome in alcuni casi, come i terremoti, gli alluvioni, i grandi eventi, i disastri di vario tipo, bisogna intervenire subito, in modo veloce, si è creato un sistema, ad esempio in Calabria e in Campania, l'ufficio per l'emergenza ambientale, che ha gestito rifiuti, depurazione delle acque e quant'altro. Adesso parliamo di altri eventi, l'Abruzzo, il dramma del terremoto, oppure gli eventi connessi al G8, si è creato un sistema normativo che consente uno snellimento straordinario, affidamenti diretti, trattative private velocissime, consulenze, eccetera. Questo che cosa accade? Che in un sistema politico non corrotto, ma lasciamo stare la vicenda di adesso, un sistema politico che va abbastanza bene, questo è un risultato, una risposta seria, corretta. Purtroppo da noi accade che attorno a queste vicende, qua porto anche un'esperienza che può essere utile da magistrato, nell'ufficio dell'emergenza ambientale si è creato effettivamente un sistema molto trasversale, quindi non è questione di Berlusconi, è molto trasversale dalle forze politiche, che hanno trovato tra le forze politiche, tra quelle parti corrotte, non voglio generalizzare, e di imprenditori, diciamo, che hanno approfittato di questo, un sistema che crea degli affari enormi, perché si tratta di miliardi e miliardi di euro, si crea un giro di interesse, tra l'altro una confusione di interessi tra controllori e controllati, che porta a una vicenda come quella odierna che riguarda Bertolaso, sulla quale poi al di là di chi sarà la magistratura a decidere. Però il sistema è malato, non è un caso, e chiudo, che come Presidente della Commissione Controllo sul Bilancio al Parlamento Europeo, dove ci occupiamo di fondi europei, abbiamo deciso di fare una missione in Italia a breve, nel 2010, tra le varie regioni anche l'Abruzzo, perché ci sono una serie di indici che ci preoccupano, cioè avendo stanziato il Parlamento Europeo quasi 500 milioni di euro giustamente per la popolazione dell'Abruzzo, noi vogliamo anche vedere se dietro l'affidamento diretto di opere, appalti eccetera, non ci sia questo sistema, e degli indicatori che stiamo raccogliendo ci danno dei segnali di allarme, di preoccupazione. Ecco perché questa vicenda giudiziaria si innesta in un problema che, come ha detto lei, che è assolutamente centrale, che è quello di come vengono affidate le opere, e questo disegno di legge della protezione civile cosiddetta SPA, che addirittura accelera un processo generalizzato di privatizzazione, un po' come per il Ministero della Difesa, la Difesa SPA, per quanto mi riguarda mi preoccupa enormemente, perché porta a svendere completamente quello che di pubblico è rimasto nel nostro paese. De Magistris, se faccio una domanda, perché lei partiva dal presupposto, come politico, certo, avere uno strumento che consenta di accelerare i tempi è utile, poi il problema è vedere quale politica, lei dice bipartisan, va a malaffare, ma chi giudica poi a questo punto in maniera preventiva, quando invece la rapidità nell'esecuzione è priva del sospetto? Cioè, le faccio un esempio concreto, qua stiamo facendo, per esempio, uno dei tronconi riguarda le opere, le piscine, per esempio, per i mondiali di nuoto a Roma, che volle fortissimamente l'amministrazione Veltroni, utilizzò la protezione civile anche per sgombrare parti del Tevere dove poi si realizzarono impianti, eccetera eccetera. Allora, in quel caso, se, nel suo mondo ideale, in cui c'è bisogno di uno strumento rapido e però deve essere naturalmente tutto fatto a modo, chi è che a quel punto, di fronte a un'autorità che d'accordo con quella nazionale chiede la deroga all'ordinarietà, all'ordinarietà e quindi chiede che gli strumenti ad operare siano quelli della protezione civile. Chi certifica a quel punto che siamo nella virtù e non nel vizio? Allora, la ringrazio di questa domanda perché mi consente anche di specificare che secondo me c'è stato un allargamento delle ipotesi in cui si può ricorrere a queste procedure accelerate. Ad esempio lei ha citato piscine, eventi sportivi, ma come anche alcuni eventi legati alla politica. Io francamente non vedo questa necessità di derogare alla normativa di tipo ordinario. E però significa che l'Expo e i mondiali e tutte queste cose qua, con i tempi delle leggi italiane, non ci candidiamo più a farle. Però è grave questo, perché come dire che la giustizia non funziona in Italia, affidiamoci agli arbitrati o affidiamoci alla conciliazione dei privati, e noi dobbiamo risolvere a monte il problema che le norme sugli appalti, che sono norme sulle quali noi non possiamo derogare, attenzione, perché c'è l'Unione Europea e le direttive, devono essere applicate. Se la burocrazia in Italia non funziona, bisogna fare in modo che funziona meglio. Poi chi è che decide, come diceva lei? È la norma. Cioè la norma deve prevedere in quali casi si può derogare alla legislazione di tipo ordinario, e secondo me devono essere casi eccezionali, come appunto le alluvioni, i terremoti, come può essere in alcuni casi. Pensiamo ai rifiuti. Che cosa è accaduto in questi anni in Italia, dal 98 ad oggi, da quando è stata inserita l'emergenza ambientale? Che l'emergenza non è stata mai superata, e anzi secondo me si è mantenuta in qualche modo, perché mantenendo questa situazione di emergenza si è consentito per 12 anni ormai di perpetrare affidamenti diretti, opere dirette. Ho capito, però poi alla fine, se non ci andava mister Bertolaso, col cavolo che si risolveva, malgrado il fatto che già da prima c'erano gli affidamenti diretti, quindi... Ma guardi, mister Bertolaso, secondo me ci sono luci e ombre. Io questo anche nella questione dell'immondizia in Campania e Napoli. Non dimentichiamo che Bertolaso è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria, lui e la struttura anche in Campania. No, quindi... per carità, ma io lì temo che quasi chiunque tenti di fare qualcosa, mi sbaglierò. Su questo mi consenta, non sono d'accordo con lei. Cioè, nel senso che io credo che uno può gestire anche un ufficio dell'emergenza con la trasparenza e con l'onestà. Visto il coacervo di interessi propri e impropri che sullo smaltimento c'è in Campania, io la prego di restare se ha tempo, perché se non ha tempo e il Parlamento Europeo chiama, comunque la ringrazio, perché a questo punto volevo sapere da Iole Santelli che cosa lo convinca o non lo convinca in tutto quello che ha detto De Magistris, e rispetto insomma ai meriti che secondo me Bertolaso ha. Invece prego Santelli. Ma guardi, io innanzitutto la ringrazio per aver puntato sul dato politico più che su quello scandalistico giudiziario, di cui poi ovviamente ignoriamo ovviamente le carte, non sappiamo bene se non delle alcune resoconti giornalistici. Il tema, io non credo innanzitutto che il sistema italiano in generale, che è un sistema fatto e organizzato per tutta una serie di centri di potere, di autorità che sono in grado di inserire veti e controveti, sia un effettivo sistema di trasparenza. E su questo mi sentirei onestamente per la prima volta, forse non credo che sia il caso di puntare così il dito sempre e comunque contro la politica. Qui abbiamo un altro problema, abbiamo un problema più grosso, a mio parere, che è dato dai livelli enormi di burocrazia, di tutti i tavoli, di tutte le firme che vanno date, che creano in realtà, come si è visto dal 92 in poi, perché alla fine questo si è visto, un sistema di corruttela che è infinitamente maggiore, e non solo ci teniamo la corruttela, ma ci teniamo anche la totale inefficienza. Questo è purtroppo il dato, cioè comprendere che più livelli di controllo mettiamo, più di fatto in realtà invece che aiutare e migliorare la trasparenza, sembra che costruiamo un sistema a scatole cinesi per cui rendiamo la vita impossibile e rendiamo più facile alleare la macchina burocratica con mezzi impropri. Ora, è chiaro che se questa è la legge, si tenta di dare delle risposte. La politica in questo ha un ruolo, che senso? Nel senso di dover dare delle risposte ai cittadini, di essere chiamata a giudizio di responsabilità poi per ciò che è fatto e ciò che non è fatto. E la deroga, che in questo paese, diciamo la verità, mettiamo tante di quelle regole che poi alla fine quasi sempre la deroga diventa più che eccezione, diventa regola, e diventa deroga e regola di efficienza. Cioè in modo per ottenere il risultato. Però io adesso la interrompo per la pubblicità, naturalmente le restituisco la parola dopo. Temo che l'apparato burocratico amministrativo e soprattutto i giudici amministrativi, i giudici contabili, voglio dire, scusatemi, quelli che nella straordinarietà della protezione civile non ci possono mettere il naso nel giudizio né preventivo e possono a malapena farlo in quello successivo, temo che alla fine si stiano prendendo una piccola rivincita, perché dicono: cara politica, se tu estendi troppo l'area di eccezione ai sistemi di controllo preventivo, attenzione che ci mettiamo non troppo a rimetterti in regola. E naturalmente io non ho sospetti sui magistrati di Firenze, che Dio mi liberi, non ho mai visto in decenni di vita italiana indagini se non le più specchiate e trasparenti, lo dico con naturalmente un po' di sorriso, visto che la competenza territoriale anche nel caso di Firenze si estende a vicende di tutta Italia. Però credo che ci sia un piccolo regolamento di conti in atto, e se ne sono visti i segni anche nel dibattito parlamentare sulla protezione civile SPA, perché lì fior di carte che provenivano dall'interno degli apparati di controllo dello Stato sono approdati in aula per dire: queste eccezioni sono troppo ampie e state attenti, perché questa roba non nascerà. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del caso Bertolaso, dei provvedimenti della magistratura di Firenze nei suoi confronti, dei provvedimenti di arresto nei confronti di altri vertici della protezione civile e dei lavori pubblici nel nostro paese. Qual è stata la reazione di Guido Bertolaso? Oggi c'è La Stampa a riportarlo e le sue parole sono state come se tanti anni di sacrifici e di disponibilità venissero cancellati con questo avviso di garanzia. Anche se sono tranquillo, sono sereno, ha detto, ho sempre impostato il mio lavoro di servitore dello Stato cercando di garantire la massima trasparenza e di mettere davanti a tutti la sicurezza dei cittadini. Poi c'è una frase sulla quale vi invito a riflettere, perché a me ha colpito, di Bertolaso. Dice: io sono medico e quando mi chiamano perché ci sono dei feriti cerco di salvare loro la vita, e se è necessario per farlo passo anche con il rosso e vado contromano. Poi, se del caso, pagherò la multa, ma le mie vicende personali non devono riguardare le emergenze. Allora, in questa frase, cioè, quando un medico viene chiamato perché ci sono dei feriti, il medico deontologicamente decide di andare anche contromano e di attraversare con il rosso, e poi, se del caso, paga la multa, è chiaro che il lettore ha veduto, l'ascoltatore ha veduto, può intravedere un messaggio profondo che Guido Bertolaso ci sta mandando qualche ora dopo essere stato colpito da un provvedimento che naturalmente ritiene ingiusto, ma di fronte al quale si è comportato con grande serenità, personalmente essendo presente alle perquisizioni sia nella sua abitazione ieri mattina presto che successivamente per oltre due ore nella sede centrale della protezione civile a via Ulpiano. E cioè, che cosa ci fa capire Bertolaso? Secondo me, ovviamente non sono un interprete ufficiale, ma come giornalista credo che quella frase non sia casuale, e quella frase io non la intendo come ho violato la legge di fronte alle ipotesi di corruzione elevate nell'avviso di garanzia dagli intercettatori magistrati di Firenze, ma io la interpreto come un attenti, perché di fronte a molte circostanze la rapidità che ci si chiede di mettere in atto è una rapidità di fronte alla quale successivi rilievi formali, che ne so, in ordine alle imprese a cui affidiamo dei lavori, se avessimo dovuto invece seguire i bandi europei di equipollenza dei mezzi patrimoniali a fronte delle dotazioni tecniche, a fronte delle specifiche del lavoro da seguire, aprirebbero esattamente come andare contromano o passare con il rosso. Ma certo, i tempi con cui ci dobbiamo muovere, quello che fanno rilevare a noi è che conta soprattutto il risultato. Contro obiezione sì, ma se voi invece che per salvare i feriti lo fate invece per le feste dei paesi, per le e i pellegrinaggi, ecco che questo diventa un argomento che non ci piace, e questa secondo me poi è il nocciolo della faccenda. Andiamo con altri ospiti che vi presento. Abbiamo con noi, ne sono molto felice di questo perché è una persona di cui ho grandissima stima, ce l'ho da molti anni, Giuseppe Zamberletti, ve lo ricordo, è l'ex commissario straordinario del terremoto del Friuli 76, Irpini 80, e il fondatore della moderna protezione civile, e l'uomo che ha consentito in un'altra Italia, quella dei partiti, di dimostrare che si poteva essere rapidi, efficienti, sicuri, apprezzati nel mondo, con strutture tecniche per affrontare l'emergenza, e ora è presidente del Comitato Grandi Sismi della Protezione Civile. Buongiorno Zamberletti. Buongiorno a lei. Ecco, io le chiedo, di fronte a quello che sta avvenendo, le parole di Bertolaso e la sua esperienza, che è tra le più lunghe e le migliori nel paese, qual è il suo giudizio su queste indagini, qual è il suo giudizio su Protezione Civile, come ha funzionato? Esiste davvero un improprio estendersi delle aree di intervento della Protezione Civile, cioè laddove non c'è l'emergenza, e questo legittima quindi chi si sente escluso dai controlli contabili e di merito preventivi nel dire ai magistrati buttateci l'orecchio? Dunque, premetto che io ho una grande stima per Bertolaso e sono convinto che lui abbia sempre agito e abbia sempre operato con grande trasparenza e con grande linearità. Fra l'altro gli sono anche grato, perché Bertolaso ha riportato in superficie tutta l'organizzazione di una protezione civile che è esattamente quella che avevamo immaginato quando l'abbiamo fondata, quella del Dipartimento Nazionale presso la Presidenza del Consiglio e l'articolazione della protezione civile così come l'avevamo immaginata, impostata e avviata. Quindi Bertolaso ha anche la mia gratitudine personale per il lavoro che ha fatto e per aver portato e mantenuto la protezione civile a un livello che ci viene invidiato da tutti i paesi del mondo. Devo dire che tutti hanno espresso giudizi estremamente positivi su un sistema, perché la protezione civile non è un'amministrazione, è un sistema. In Italia ci si è abituati ad amministrare per amministrazione, la difesa, gli interni, i lavori pubblici, la protezione civile, coinvolgendo tutte le amministrazioni, ed ecco perché è alla Presidenza del Consiglio, la protezione civile coordina forze diverse e componenti diverse. C'è il problema dei famosi poteri della protezione civile, che vennero varati per la prima volta durante il terremoto del Friuli. Io ricordo che quando arrivai come commissario in Friuli, allora non c'era la protezione civile, cioè lo Stato interveniva improvvisando in ogni emergenza, non c'era a monte un'organizzazione preparata per intervenire. Quando arrivai in Friuli mi accorsi fra l'altro che questo commissario previsto da una legge del 1970 non aveva nessun potere e chiesi al governo di avere i poteri eccezionali per operare. Il coordinamento così come espresso dalla legge era una funzione puramente chiacchiereccia, cioè si trattava di mettere intorno a un tavolo un po' di gente e cercare di mettersi d'accordo su cosa ogni componente dovesse fare. Ricordo che quando venne confezionato l'articolo che ancora adesso alla base, l'articolo di legge alla base dei poteri della protezione civile e che così recitava, il commissario può agire in deroga a tutte le leggi dello Stato, ivi comprese quelle sulla contabilità generale, avendo come unico limite i principi dell'ordinamento giuridico. Bene, aspetta un secondo, la fermo su questo, perché questo secondo me è il punto. Nella legge, che poi quella legge generale sulla protezione civile è quella del 92, ancora successiva, perché è frutto dell'esperienza che lei sta richiamando, c'è una definizione abbastanza ristretta rispetto a come negli anni successivi poi le ordinanze della Presidenza del Consiglio hanno attribuito i poteri alla funzione della protezione civile. E l'accusa, il sospetto anzi, prima ancora che l'accusa, è che proprio l'attribuzione di ingenti risorse, perché qui stiamo parlando di risorse spese in pochi anni superiori ai 2 miliardi di euro, e con la ristrettezza che c'è nella finanza pubblica centrale e locale, non sono proprio peanuts, non sono proprio delle caramelline. Allora, si dice, il sospetto è che con un'interpretazione estensiva del concetto di competenza, legge 92, figlia delle evoluzioni che lei ci sta ricordando da quando invece non c'era nessuna competenza e si metteva semplicemente intorno a un tavolo qualcuno, invece il poter esercitare la deroga e il poterla esercitare con vasta dotazione finanziaria alla deroga, il sospetto è che questo faccia venire, per così dire, l'acquolina in bocca a molti amministratori locali, a prescindere dal colore delle amministrazioni in carica, perché non di fronte a sismi, l'Aquila, quello nell'Umbria, quello in Puglia precedente, l'emergenza rifiuti a Napoli, no, ma di fronte ai mondiali, i G8, il vertice NATO, oppure gare ciclistiche, perché di questo si tratta anche a volte, ostensioni di reliquie di santi, gli amministratori non vedono niente di meglio che il calo della protezione civile in deroga, perché dice qui in 3 settimane facciamo tutto. Mi serve l'opinione di Zamberletti su questo, perché io mi fido della sua opinione. È avvenuto questo secondo lei? Beh, è avvenuto che, e questa non è responsabilità della Protezione Civile, questa è una responsabilità politica che tutti i governi hanno sulle spalle, che a fronte di normative che non gli consentivano o ritenevano che non gli consentissero di agire con la sufficiente tempestività e con la sufficiente incisività, caricassero sulla Protezione Civile. Io ricordo che proprio già negli anni della nascita della Protezione Civile, ricordo che il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ANAS in particolare ci chiedeva degli interventi in deroga, allora noi davamo solo i poteri a queste amministrazioni per operare, per esempio per rettificare curve pericolose sulle strade statali e quindi per poter agire con estrema sollecitudine per ragioni di sicurezza in quel caso, e quindi ravvisavamo che pur non essendoci un'emergenza del momento, ma una lunga emergenza, perché su quei tratti di strada si sono verificati una grande quantità di incidenti, la necessità di rapidamente porre fine a degli inconvenienti che tutti denunciavano. Quindi queste cose avvengono. Allora, sentiamo qualche ascoltatore intorno al fatto se avvengono o non avvengono, come devono avvenire, che pensano. Giovanni da Roma, che pensa? Buongiorno. Sì. Intanto saluto l'onorevole Zamberletti, col quale io ho lavorato, anche se lui ovviamente non lo sa, perché io ero molto molto lontano dal vertice. Dal suo vertice, però lei che pensa? Io ho lavorato durante il terremoto dell'Irpinia, mi sono trovato in difficoltà proprio per la legislazione che mi metteva dei limiti. Un esempio, io pur avendo una vasta area in cui operare come militare, potevo spendere di mia autonomia fino a 500.000 lire, che sarebbero 250 euro di oggi, per sa poco. Quindi ben vengano le leggi speciali per queste opere di intervento in pubblica sanità. Quello che non capisco è come la Protezione Civile si debba occupare di altre cose. Dice, ma c'è l'urgenza, benissimo, se le nostre leggi non sono in grado di fare in tempi utili un'opera tipo la Maddalena, del Giotto della Maddalena o altre opere del genere, benissimo, i parlamentari cambiano le leggi. Grazie Giovanni, i parlamentari cambiano le leggi, però i parlamentari, prima che cambiano le leggi, l'alternativa è che non ci si candida più a niente. Cioè, ripeto, non facciamo l'Expo e non facciamo più nient'altro. Forse bisognerebbe fare così il Parlamento le cambia, le leggi ordinarie, ma altrimenti temo che questa roba sia un pochino velleitaria, questa posizione. Non lo dico per mancanza di rispetto a chi la solleva, no, ma è corrisponde a un paese ideale che non è l'Italia, perché l'Italia ha affastellato continui regimi di controllo inefficaci, perché fossero efficaci. Leggo alcuni degli sms pervenutici su questa cosa dei regimi straordinari consentiti a ordinanze a raffica, che a quel punto sono della politica, che attribuiscono al Dipartimento poteri su cose diverse che sismi o esondazioni di fiumi. E un sms che mi colpisce: in Abruzzo i fornitori, si parla del terremoto, i fornitori hanno lavorato a prezzo di listino pieno, poi la differenza l'hanno resa ai politici locali. Chiedete se queste non sono tangenti. Voci, impressioni, opinioni, fatti, non lo so. Sentiamo ancora qualche ascoltatore rapidissimamente. Innanzitutto Marco da Perugia, prego Marco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, complimenti perché lei è un professionista in mezzo a tanti ciarlatani. Detto ciò, mi fa piacere che il dottor De Magistris, che fa parte della casta, si renda conto che ci sono anche i poveri comuni mortali che non possono aspettare un anno, due anni, tre anni per aprire un'attività, perché lor signori non si decidono ad emettere delle leggi per snellire le pratiche. Fanno le leggi, si dimenticano di quelle che ci sono prima, quindi è impossibile applicare la legge nuova, lei va in un ufficio, nessuno si prende la responsabilità di fare alcunché, perché ci sono vecchie leggi che impediscono di applicare quella precedente, perché bisogna andare a vedere se c'è la deroga, che manda in deroga, che elimina, che ricorda, un casino. Si mettano in testa, lor signori, che noi italiani, poveri servi del sistema, non si può andare avanti così. Quindi lei dice, al di là delle perifrasi, meglio una straordinarietà che risolve anche fuori dai terremoti, ma che risolve, che un'ordinarietà che non mi consente niente tranne che tante interdizioni a cui devo pagare pegno. Beh, in non sintesi. Non facciamo più niente. Grazie Marco, opinione netta, precisa e devo dire molto comprensibile. Secondo me lo pensa in larga misura molti milioni di italiani che non riescono a spostare una paglia a casa, detta fuori. Oltretutto invito a riflettere su milioni di italiani a cui era stato detto che vi erano le leggi di nuovo per poter fare l'ampliamento in casa, poi per effetto delle leggi regionali non si è mosso praticamente quasi nulla in nessuna regione. A Milano, sto dicendo quindi l'ambientazione di centrodestra, a Milano per via della legge regionale ci sono 19 richieste, appunto perché evidentemente le norme non consentono di fare quasi nulla. Michele da Bergamo, rapido Michele. Buongiorno, una domanda per De Magistris. Premesso che l'eccesso di burocratizzazione ha portato la delega di poteri straordinari anche alla protezione civile, ma questo succede già dal 92 ad oggi, chissà quanti politici hanno avuto e quante amministrazioni hanno avuto soldi da spendere, parecchi soldi da spendere per tantissime cose, non sto qua ad elencarle. Quello che ho visto e soprattutto, che comunque De Magistris so che lavora bene. E la domanda è? Una in tutta onestà, premesso tutto questo, secondo lui c'è un attacco così, proprio adesso, al signor Bertolaso? Grazie. De Magistris, sei ancora in linea? Sì, sono in linea. Risponda alla domanda. Guardi, non credo proprio, infatti non ho condiviso quella sua affermazione prima, quando a proposito della giusta premessa del che con questa legge si eliminano i controlli della Corte dei Conti, lei ha parlato di un... che questa vicenda Bertolaso potrebbe essere un piccolo regolamento dei conti della magistratura. Vorrei solo dire una cosa rapida su quelle parole di Bertolaso. Ma aspetti, però io non credo che sia, ha ragione, perché se ho fatto capire che si tratta di una cosa per cui c'è un mandante per eliminarlo così, mi devo scusare con chi ascoltava, perché non intendevo questo. Io intendevo che, siccome ho letto gli atti del dibattito parlamentare, un dibattito parlamentare in cui l'opposizione sta esponendo tutti questi argomenti, ho visto citare molto spesso argomenti che venivano da magistratura contabile, per cui, siccome conosco l'ambiente, ho detto la magistratura contabile tenta, dando argomenti in ordine di legittimità, quindi non di mandanti e di cose improprie, per dire insomma noi riputiamo che lì ci sia qualche cosa che ci è sottratto, in cui ci farebbe molto piacere invece mettere il naso. Questo intendevo e la ringrazio per avermelo fatto precisare. Grazie a lei, infatti qui è la magistratura ordinaria. Vorrei dire proprio una cosa brevissima sulle parole di Bertolaso che lei prima ha letto. Io vorrei fare innanzitutto una premessa che non dobbiamo mai dimenticarci di ricordare, perché io sono un garantista: un avviso di garanzia non è una condanna, è l'inizio di un'indagine preliminare nei confronti di una persona. Ma detto questo, non mi convince la frase di Bertolaso, che è un po' retorica, che quella di passare con Rosso, che c'ha un suo fondamento, perché è vero, l'ho detto anche io prima, quando c'è un'emergenza come Haiti adesso, il Parlamento europeo ha dovuto subito intervenire con dei fondi. Però qui attenzione, perché se fosse confermata l'ipotesi iniziale di indagine preliminare, parliamo di corruzione, cioè parliamo del fatto che lui avrebbe ricevuto utilità per sé o per altri, che è un tema ovviamente gravissimo se fosse confermato. Quindi lei dice lì non si tratta di passare con Rosso per salvare dai morti, ma se con questi costruttori romani e altri qua c'erano piaceri, favori eccetera, insomma stiamo parlando di... Passi con Rosso. No, ho capito. Diciamo, lei deve capire che per milioni di italiani c'è una certa fatica a immaginare Bertolaso che telefona scendendo dalla scaletta dell'aereo chiedendo mignotte a Roma, come titolano questi di Libero oggi. Io almeno fatico, poi insomma può essere tutto, ma io fatico, e immagino che lei capisca che agli occhi di milioni di italiani e l'uomo che da Vespa si è sempre visto in Abruzzo eccetera eccetera, e ieri sera si capiva come quando si sbatteva sulla vicenda dell'Abruzzo porta a porta è inevitabile che gli italiani si spostano, perché preferiscono aver visto una soluzione sia pure criticabile come quella delle case consegnate in mano. E quando invece sentivo il senatore Zanda, persona seria del PD, dire sì, però la ricostruzione dei centri storici sarebbe stata meglio, però gli italiani capiscono che la ricostruzione dei centri storici sarebbe venuta tra chissà quanti anni, mentre le case in mano, senza tende, più nessuno in tenda sotto la neve, ci sono subito, e questo secondo me agli italiani piace ed è giusto così. Onorevole Santelli, in conclusione, tra riforme impossibili o molto complicate della legge ordinaria ed estensione delle, con ordinanza la presenza del Consiglio della Protezione Civile di Bertolaso, lei che cosa crede che realisticamente avvenga malgrado queste inchieste, e che cosa si augura e cosa sarà più giusto soprattutto? Ma io mi auguro innanzitutto che vengano risolti i problemi, e siccome è vero che possiamo modificare alcune leggi, guardi, ma è così complicato, perché ogni qualvolta bisogna toccare qualsiasi cosa in questo paese c'è qualcuno che ha il diritto di metterci il naso. E non parlo soltanto della magistratura, ma parlo di 2000 enti. Poi io devo dire, al contrario del collega De Magistris, non riesco a dire tutta la politica è malata, tutta la magistratura è sana. No, insomma, ci sono politici malati e sani, c'è magistratura malata e sana, insomma, ognuno, sono italiani tutti, ecco, senza dire delle categorie. Le vorrei sottolineare una cosa che a me invece ha inquietato. Sono circa 4 mesi che gli organi di stampa ci sono paginate intere, a me, io l'avevo notato, su cosiddetto uomo troppo forte, l'uomo che ha troppo potere, cioè si è costruito il personaggio Bertolaso, che era visto, devo dire che è sempre anche rimasto sotto le righe, non ha mai, credo, peccato di presenzialismo. A un certo punto invece è sembrato che si cominciasse a demonizzare il personaggio. Io non lo noto, e se andiamo a guardare la rassegna stampa degli ultimi 4 mesi, anche abbastanza a macchia d'olio, nasce il discorso: ma per carità, non è che c'è uno che è troppo forte, non è che c'è qualcuno che in questo momento in Italia gestisce troppo potere e forse ha un'eccessiva, diciamo, fiducia, quindi viene contestato da un lato l'uomo, senza nasconderci dietro un dito, viene contestata anche, fra virgolette, perché poi al di là di quelli che sono, diciamo, nei presupposti di un'inchiesta, di intercettazioni, non voglio parlare perché poi, insomma, riprendiamo sempre nelle stesse cose, viene contestato il cosiddetto metodo dell'efficienza, il cosiddetto metodo dell'efficienza berlusconiana oggi. Quindi lei ci vede un segno di questo tipo, insomma, senza esserne sicura, però insomma è un'ipotesi ragionevole. Senta, io sospetto ce l'ho, io sospetto da politico posso averlo, non so se possono averlo i magistrati il sospetto. Chiarissimo. Loro devono avere i fatti, no, io no. Da politico posso avere il sospetto. Io ringrazio l'onorevole Santelli e l'onorevole dei magistris, Giuseppe Zamberletti, abbiamo fatto parlare troppo poco, il punto è che i magistrati di ascolto in ascolto hanno colpito laddove, se avete letto gli atti parlamentari di questa riforma che non andava avanti della protezione civile, spacera chi se lo aspettava. Sì, forse Bertolaso era diventato un uomo scomodo perché troppo rapido, troppo efficiente, ma il problema dei controlli esiste e non ce lo dimentichiamo come contribuenti innanzitutto. Grazie regia Pietro Lacorte, grazie Alessandro Marco Tulli, la linea Giornale Radio, se il re ne vuole, appuntamento a domani. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme, mi ha lasciato. Capita, lo so. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Tutto. Vendo tutto. Tutti i giorni alle 16 su Radio 24. Vendo tutto. Anche sul canale 700 di Sky. Scopri la nuova Peugeot 5008, la monovolume che tutti vogliono guidare. Solo a febbraio supervalutiamo il tuo usato e con finanziamento Peugeot il pack video è in omaggio. Nuova monovolume Peugeot 5008, vieni a provarla. L'offerta scade il 28 febbraio 2010. Collezionisti e investitori si danno appuntamento a Unica Fine Art Expo, la più imponente mostra d'antiquariato d'Italia. A Modena Fiere, dal 13 al 21 febbraio, Unica ospita Modena Antiquaria, con mobili, dipinti, gioielli, tappeti, la pittura dell'Ottocento e Petra. Un parco di 6.000 metri quadrati dedicato all'antiquariato per esterni. Massimo Bottura presenta Art and Food, l'alta gastronomia in fiera. Info e prenotazioni su unicaexpo.it. Tutto a Modena Fiere, dal 13 al 21 febbraio. Siamo piccole e medie imprese, il motore di un pianeta più intelligente. Per essere competitivi dobbiamo gestire il business in modo più semplice e flessibile. Ci vogliono gli strumenti giusti. ACG Vision 4 è l'ERP multipiattaforma di IBM che integra sistemi, informazioni, applicazioni interni ed esterni all'azienda per portarci più lontano e proteggere gli investimenti fatti. E oggi con ACG Vision 4 disponibile sulla piattaforma IBM Smart Business hai soluzioni, infrastrutture e servizi a partire da 19 euro al giorno. Per informazioni e condizioni di finanziamento visita ibm.com/offertepmi/it. Mia moglie mi ha detto che aspetta un bebè. Presto dovrò cambiare il mio coupé. 1254. Ringa 1254. Ti trova un concessionario e il percorso per arrivarci. Per i costi vai su 1254.it. Certificazione ambientale? Risparmio energetico? Riduzione dell'impatto ambientale? Se per la tua azienda questi sono traguardi importanti, cogli le opportunità di Fondi Impresa. Con l'avviso 5-2009, Fondi Impresa finanzia la formazione su questi obiettivi. Fondi Impresa è il fondo per la formazione continua di Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Aderendo a Fondi Impresa, tutte le aziende possono fare formazione per i propri dipendenti a costo zero. Chi sceglie Fondi Impresa, guarda avanti. Tutte le informazioni sul sito www.fondiimpresa.it. Tornano i consigli di Giudici.